Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, avete appena sentito Le molle di Tiramolla, un famoso fumetto di quelli della mia generazione, dell'infanzia, di quella della mia generazione, e che parla di un personaggio che è elastico e grazie alla sua elasticità può fare delle cose stranissime e molto potenti. Perché Tiramolla? Perché il produttore di molle lo abbiamo qui oggi presente in trasmissione. Si chiama Ferdinando Perillo e ha una piccola azienda in quella di Lecco, anzi Bosisio Parini, che fa molle e sistemi elastici ad elevata potenza per il mondo dell'automotive e anche per altri mondi. Perché l'ho invitato? Perché lui, con i suoi 7,4 milioni di euro di fatturato, è il tipico rappresentante di quell'imprenditoria diffusa e ad alto valore aggiunto che praticamente sta difendendo la manifattura italiana. Voi pensate che Perillo, pur piccolo, pur in un posto che è proprio nel provincia più profonda, più sconosciuta, quanti di voi sanno che esiste Bosisio Parini? Ecco, Perillo, oltre a fare un fatturato così piccolo, ha un mall del 30-40% e mette i suoi prodotti su macchine di alta qualità come quelle della Volkswagen e di altri grandi produttori in giro per il mondo, perfino su auto giapponese. Voi quindi immaginate i fornitori di primo livello della Volkswagen che vanno sul lago di Lecco, in questo paesino remoto, sconosciuto, a cercare le molle perché non le trovano altrove. E quindi proprio quell'artigianato quasi digitale che è il meglio di quello che noi abbiamo qui. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Perillo. Buongiorno a lei. Allora, è contento che quest'anno passiamo da 7,4 a 9 milioni di euro di fatturato? C'è da lavorare di più, però va bene così, insomma, non lamentiamoci della gamba sana, come si suol dire. Ma com'è che le multinazionali montano sulle loro auto, sotto i loro sedili, le molle fatte da un produttore così piccolo e in un posto così remoto? Beh, posto così remoto, se ci sentono i miei concittadini di Lecco. No, non è Lecco, è Bosisio Parini. Ma che Bosisio è famoso anche lui per il poeta, e quindi una rigogliosa località sul lago di Pusiano. Quindi... Ecco, ma come mai hanno bisogno aziende come la Volkswagen di venire fino lì a cercare le molle? Beh, sicuramente le aziende guardano la competitività a livello economico, però non solo, in fase ad esempio di messa a punto di co-design e di sviluppo dei prodotti richiedono una flessibilità e una professionalità che ormai nelle grosse aziende magari è sempre più difficile trovare. Ma voi cosa siete, degli artigiani o degli industriali? Noi siamo dei artigiani professionisti, non so, si può dire. Ah, ma lei cos'ha, 40 dipendenti? Sì, 40 dipendenti, sì. E i vostri sistemi elastici, cioè, ce li può raccontare in uno o due minuti in che cosa consistono, come sono fatti? Noi ci siamo sviluppati nel tempo su particolari particolarmente tecnici, e in modo così più approfondito, sui prodotti di sicurezza, quindi cinto di sicurezza, airbag, impianti frenanti per auto, per camion, appoggiatesta, insomma tutto quello che fa la sicurezza abitacolo nel mondo dell'auto. Questo col tempo chiaramente ci ha elevato dal punto di vista professionale, portandoci al cospetto di questi big mondiali che sono aziende quotate sulla borsa americana piuttosto che sulla borsa tedesca, eccetera. Ecco, ma mi diceva prima che registrassimo che l'attaccata vi ha fatto un ordine di 40.000 pezzi. No, 40 milioni. 40 milioni di pezzi per consideri per Volkswagen. Che questa è una nuova cintura di sicurezza, quindi consideriamo che ogni cintura di sicurezza ha due componenti. Quindi in ogni vettura ci sono 5 cinture di sicurezza, sono 10 prodotti, 10 pezzi per ogni auto, quindi alla fin fine non sono neanche tanti. Questo sarà solo un modello di vettura solo per i giapponesi. Nel mondo questi numeri cambiano in maniera vertiginosa. Ah, benissimo. Riprendiamo a parlarne dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. F- Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Ferdinando Perillo, che è un imprenditore nel settore dei sistemi elastici, ecco perché la citazione di Tira Molla, e raccontavo il suo caso di un'azienda piccolissima in un borgo sconosciuto neanche sul lago di Lecco, sul lago di Pusiano, che pure fa sistemi ad alta tecnologia che vende a multinazionali come Volkswagen piuttosto che altri. Li vende perché in realtà vende ai fornitori di primo livello, lui è un second tier, però comunque ad esempio mi diceva di avere ricevuto da Takata una commessa di 40 milioni di pezzi destinata a essere montata su auto Volkswagen. Ma come fate in 40 a fare 40 milioni di pezzi? Beh, qui le produzioni orarie sono elevate, chiaramente per essere competitivi bisogna avere attrezzature e macchinari d'avanguardia, che 40 milioni di pezzi non sono neanche tanti. Ma voi avete anche uno stabilimento produttivo in Messico, come mai in Messico? Sì, abbiamo preso questa sfida a novembre dell'anno scorso, dato in cui ci hanno consegnato l'immobile nuovo praticamente in Messico. Beh, perché lì è la nuova frontiera, lì è il mercato automotive, si sposta praticamente in quell'area, lì ormai sono tutti presenti. E quindi abbiamo voluto puntare sul Messico invece che sui paesi dell'est, perché andiamo ad abbracciare un'economia diversa, dei mercati differenti e perché no, anche comunque sia, come in questo caso, dei clienti giapponesi che in Europa non sono così presenti, insomma. Quindi andiamo a sposare filosofie, modi di lavorare e magari anche tecnologie diverse. Ma voi siete una bottega artigiana ma anche un manifatturiero high tech. E l'azienda l'ha creata praticamente lei da zero, no? Sì, l'ho fondata praticamente nel 90. E, siamo stati, considerate che la Ferber è stata praticamente la terza azienda a Lecco ad avere un sito internet nel 1994, nonché la prima ad avere un home banking. Oggi tutti ce l'hanno, però nel 94 Lecco noi eravamo solo noi. Ma lei nasce da una famiglia di emigranti in Uruguay, non mi ricordo se era Uruguay, sì, o Paraguay. Uruguay. In Uruguay, che sono emigrati in Uruguay, poi sono tornati qua. Lei è nato in Uruguay, sì. Suo padre faceva il ciabattino e l'ha fatto anche lei per un po'. Sì, mi racconta brevemente, perché è carinissima sta storia. Il mio vero mestiere è quello, praticamente il ciabattino. Oggi faccio le molle, ma praticamente perché le situazioni mi hanno portato a fare le molle. E in realtà il mio vero mestiere è il ciabattino, insomma. Ma mi racconti invece le sue origini in Uruguay e le sue peripezie che poi l'hanno portate a Bosisio Parini? Beh, quando i miei tornarono dall'Uruguay arrivarono direttamente ad Oggiono, dove praticamente vivo da quando avevo 6 mesi, in poche parole, quindi l'Uruguay ci sono praticamente solo nato e niente. E suo padre si è messo a fare il ciabattino? Sì, mio padre faceva vari lavori, tra i quali anche quello del ciabattino, ma allo stesso tempo lavorava magari in fabbrica, quindi faceva doppi lavori in quel momento. Suo padre ha sempre fatto doppi e tripli lavori, sì, no? Sì, mio padre sì. Sì. E quindi è lui che poi ha insegnato a lei a fare il ciabattino? Sì. Io quando avevo 10 anni ho cominciato a lavorare con lui e quindi niente, abbiamo fatto un po' di lavoro insieme. Ma com'è che lei da una calzoleria è passato ad aprire una società che fa molle ad alta tecnologia, anzi sistemi elastici high tech, e li vende a Volkswagen? Come è avvenuta questa parabola? Beh, niente, io sono arrivato a questo settore attraverso mia moglie. Sua moglie cosa faceva? Mia moglie ha un'altra azienda nel medesimo settore, solo con un orientamento meno forte verso l'estero. Quindi niente, da lì ho preso lo spunto e ho creato questa Ferper Springs, che fin dall'inizio aveva una vocazione verso l'estero, infatti il nome non a caso praticamente porta nel nome la perché parola Springs, molle. Perché Springs vuol dire non solo primavera, ma vuol dire anche molle in inglese. Infatti. Ecco, ma c'è qualcosa del saper fare del calzolaio che poi viene anche nel produttore di molle? No, direi che l'unico fattore comune è la motivazione. Cioè, diciamo, io direi in una parola molto più semplice, la fame, no? quindi la voglia di fare, la voglia di arrivare, la voglia di costruire qualcosa. Quindi come calzolaio probabilmente mi è rimasta solamente così l'istinto. Però ci sono ancora i negozi. Beh, non si guadagna più, penso, come guadagnavo. Ma lei ce li ha però ancora? Sono ancora suoi? No. Io li ha venduti? Si è sceso l'attività, sì. Perché lei aveva sia la riparazione delle scarpe che anche la vendita? No, solo la riparazione, però nel frattempo lavoravo anche in fabbrica. Ah, e che fabbrica era? Polistirolo espanso. E da lì ha imparato poi come fare l'azienda? Da lì forse le prime nozioni meccaniche le ho imparate lì, perché lì cambiavo gli stampi, attrezzavo le macchine. Avevo 17 anni, avevo la chiave dell'azienda, quindi entravo prima. Ma lei fa sempre secondi e terzi lavori, infatti ha anche aperto dei negozi di alimentari, no? Beh, quella è una passione, io sono assaggiatore nazionale formaggi, sono fatto anche 3 anni di sommelier, quindi quella è una passione che così mi sarebbe piaciuto anche coltivare parallelamente, però gli impegni di lavoro non mi hanno consentito. Ma di la proseguire. Coltiva ancora un po', dai. Sì, a pranzo, cena. Senta una cosa, ma nonostante siete piccoli, crescete veloci, non rinunciate a crescere, voi volete crescere anche all'estero, e infatti caso raro per aziende piccole di quelle dimensioni non esclude di aprire il capitale a soci terzi, perché lei si rende conto che deve crescere. Sì, diciamo che oggi come oggi i tempi, tutto si è compressato e anche le crescite delle aziende devono seguire un trend che non è più quello di una volta di raddoppiare il fatturato magari in 10 anni, oggi il raddoppio del fatturato lo devi fare magari in 3, cosa che noi stiamo facendo, visto che nel 2008 fatturavamo solo 3 milioni di euro, oggi ne fatturiamo 7,5, quest'anno puntiamo ai 9. Ecco, ma magari adesso ci sono tutti questi sport utility o questi crossover che hanno bisogno anche di sistemi elastici maggiori, perché auto così grosse probabilmente il sistema elastico cambia, no? Beh, l'esigenza è sempre la medesima. Su queste vetture quello che cambia può essere solo la parte che riguarda gli ammortizzatori o le sospensioni. Per quanto riguarda l'intero design, che quello che perseguiamo di più noi è praticamente uguale, insomma. Che sia l'appoggio a testa, che sia l'airbag. Beh, le sospensioni però mettono in gioco anche i sistemi elastici. Beh sì, noi comunque quelli non li facciamo perché lì ci sono grossi volumi, ma con ritorni a mio avviso non interessanti, insomma. Quindi non abbiamo inseguito il settore degli ammortizzatori, delle sospensioni delle auto. Ah, ho capito, i ritorni più interessanti dove sono? Sono sui prodotti, diciamo, più tecnici, più delicati, più a rischio se vogliamo, perché qualche responsabilità chiaramente bisogna prendersela, e nel settore degli airbag e dei centri di sicurezza siamo a livello di rischio, siamo al primo livello. Tornando invece a Lecco, la sua provincia, io mettevo in evidenza la differenza fra la località remota e sconosciuta e la presenza internazionale dei prodotti, ma è vero che però un certo tipo di saper fare meccanico a Lecco c'è sempre stato da una vita. La tradizione del filo a Lecco, nasce forse il filo a Lecco, e quindi c'è tutto un indotto. Che cos'è? Di che filo parla? Beh, parliamo di filo d'acciaio principalmente, però vabbè, anche il filo di ferro. E quindi il filo d'acciaio è quello che dà elasticità, sì, al prodotto e gli consente poi di svolgere tutte le varie funzioni. E quindi ci sono tante aziende che lavorano il filo a Lecco. Sì, ma anche i miei concorrenti a Lecco sono parecchi, insomma. Nati molto prima di me, che però in qualche maniera non hanno così perseguito la strada dell'estero, se non magari negli ultimi anni. Noi l'abbiamo fatto da subito. Ecco, voi fate il 90% del fatturato nell'automotive, sì, 4% nell'elettronica, 6% nell'elettromeccanica. Dovete anche un po' diversificare e ridurre il rischio, no? Ma noi abbiamo fatto una scelta, è un luogo comune quello di dire diversificare per avere maggior sicurezza. Noi abbiamo invece non diversificato il settore, quindi il settore automotive, ma abbiamo diversificato invece l'area geografica di riferimento, quindi andando a produrre prodotti che vanno sui mercati americani piuttosto che sui mercati giapponesi, chiaramente andiamo a abbracciare delle economie diverse. Quindi anche se faccio sempre la solita molla, ma se non tira l'India tirerà il Giappone, se non tira il Giappone tirerà l'America, altrimenti tirerà l'Europa, insomma. Va bene, la ringrazio, spero di averla ancora nuovamente nostro ospite, saluto gli ascoltatori, arrivederci a sabato prossimo ore 14. Grazie a lei, buona giornata a tutti.